Udienza generale 14 marzo 2007. Cari fratelli e sorelle, nel nostro nuovo ciclo di catechesi appena iniziato stiamo passando in rassegna le principali personalità della Chiesa nascente. La scorsa settimana abbiamo parlato di Papa Clemente I, terzo successore di San Pietro. Oggi parliamo di Sant'Ignazio, che è stato il terzo vescovo di Antiochia dal 70 al 107, data del suo martirio. In quel tempo, Roma, Alessandria e Antiochia erano le tre grandi metropoli dell'impero romano. Il Concilio di Nicea parla di tre primati, ovviamente quello di Roma, ma vi erano poi anche Alessandria e Antiochia, che vantavano un loro primato. Sant'Ignazio, come si è detto, era vescovo di Antiochia, che oggi si trova in Turchia. Qui in Antiochia, come sappiamo dagli Atti degli Apostoli, sorse una comunità cristiana fiorente. Primo vescovo ne fu l'apostolo Pietro, così ci dice la tradizione, e lì per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, Atti 11:26. Eusebio di Cesarea, uno storico del IV secolo, dedica un intero capitolo della sua storia ecclesiastica alla vita e all'opera letteraria di Ignazio, 3:36. Dalla Siria, egli scrive, Ignazio fu mandato a Roma per essere gettato in pasto alle belve a causa della testimonianza da lui resa a Cristo. Compiendo il suo viaggio attraverso l'Asia, sotto la custodia severa delle guardie, che lui chiama 10 leopardi nella sua lettera ai Romani 5:1, nelle singole città dove sostava con prediche e ammonizioni andava rinsaldando le chiese. Soprattutto esortava, col calore più vivo, di guardarsi dalle eresie che allora cominciavano a pullulare e raccomandava di non staccarsi dalla tradizione apostolica. 3:36-3:4. La prima tappa del viaggio di Ignazio verso il martirio fu la città di Smirne, dove era vescovo San Policarpo, discepolo di San Giovanni. Qui Ignazio scrisse 4 lettere, rispettivamente alle chiese di Efeso, di Magnesia, di Tralli e di Roma. Partito da Smirne, prosegue Eusebio, Ignazio venne a Troade e di là spedì 9 lettere, 2 alle chiese di Filadelfia e di Smirne e una al vescovo Policarpo. Eusebio completa così l'elenco delle lettere che sono giunte a noi come un prezioso tesoro. Leggendo questi testi si sente la freschezza della fede della generazione che ancora aveva conosciuto gli apostoli. Si sente anche in queste lettere l'amore ardente di un santo. Finalmente, da Troade, il martire giunse a Roma, dove nell'anfiteatro Flavio venne dato in pasto alle bestie feroci. Nessun padre della Chiesa ha espresso, con l'intensità di Ignazio, l'anelito all'unione con Cristo e alla vita in Lui. Perciò abbiamo letto il brano evangelico sulla vigna che, secondo il Vangelo di Giovanni, è Gesù. In realtà confluiscono in Ignazio 2 correnti spirituali, quella di Paolo, tutta tesa all'unione con Cristo, e quella di Giovanni, concentrata sulla vita in Lui. A loro volta queste 2 correnti sfociano nell'imitazione di Cristo, più volte proclamato da Ignazio come il mio o il nostro Dio. Così Ignazio supplica i cristiani di Roma di non impedire il suo martirio, perché è impaziente di congiungersi con Gesù Cristo. E spiega, «È bello per me morire andando verso, eis, Gesù Cristo, piuttosto che regnare sino ai confini della terra». Cerco Lui che è morto per me, voglio Lui che è risorto per noi. Lasciate che io sia imitatore della passione del mio Dio. Romani 5:6. Si può cogliere in queste espressioni brucianti d'amore lo spiccato realismo cristologico tipico della Chiesa di Antiochia, più che mai attento all'incarnazione del Figlio di Dio e alla sua vera e concreta umanità. Gesù Cristo, scrive Ignazio agli Smirnesi, è realmente dalla stirpe di Davide, realmente è nato da una vergine, realmente fu inchiodato per noi. 1:1. L'irresistibile tensione di Ignazio verso l'unione con Cristo fonda una vera e propria mistica dell'unità. Egli stesso si definisce un uomo al quale è affidato il compito dell'unità, Filadelfesi 8:1. Per Ignazio, l'unità è anzitutto una prerogativa di Dio, che esistendo in tre persone è uno in assoluta unità. Egli ripete spesso che Dio è unità e che solo in Dio essa si trova allo stato puro e originario. L'unità da realizzare su questa terra da parte dei cristiani non è altro che un'imitazione il più possibile conforme all'archetipo divino. In questo modo Ignazio giunge a elaborare una visione della Chiesa che richiama da vicino alcune espressioni della lettera ai Corinti di Clemente Romano. «È bene per voi», scrive per esempio ai cristiani di Efeso, «procedere insieme d'accordo col pensiero del Vescovo, cosa che già fate». Infatti, il vostro collegio dei presbiteri, giustamente famoso, degno di Dio, è così armonico unito al Vescovo come le corde alla cetra. Per questo, nella vostra concordia e nel vostro amore sinfonico, Gesù Cristo è cantato. E così voi, ad uno, diventate coro, affinché nella sinfonia della concordia, dopo aver preso il tono di Dio nell'unità, cantiate a una sola voce. 4:1-2. E dopo aver raccomandato agli smirnesi di non intraprendere nulla di ciò che riguarda la Chiesa senza il Vescovo, 8:1, confida a Policarpo: «Io offro la mia vita per quelli che sono sottomessi al Vescovo, ai presbiteri e ai diaconi. Possa io con loro avere parte con Dio». Lavorate insieme, gli uni per gli altri, lottate insieme, correte insieme, soffrite insieme, dormite e vegliate insieme come amministratori di Dio, suoi assessori e servi. Cercate di piacere a colui per il quale militate e dal quale ricevete la mercede. Nessuno di voi sia trovato disertore. Il vostro battesimo rimanga come uno scudo, la fede come un elmo, la carità come una lancia, la pazienza come un'armatura. 6:1-2. Complessivamente si può cogliere nelle lettere di Ignazio una sorta di dialettica costante e feconda tra due aspetti caratteristici della vita cristiana: da una parte la struttura gerarchica della comunità ecclesiale e dall'altra l'unità fondamentale che lega fra loro tutti i fedeli in Cristo. Di conseguenza i ruoli non si possono contrapporre. Al contrario, l'insistenza sulla comunione dei credenti tra loro e con i propri pastori è continuamente riformulata attraverso eloquenti immagini e analogie. La cetra, le corde, l'intonazione, il concerto, la sinfonia. È evidente la responsabilità peculiare dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi nell'edificazione della comunità. Vale anzitutto per loro l'invito all'amore e all'unità. «Siate una cosa sola», scrive Ignazio ai Magnesi, riprendendo la preghiera di Gesù nell'ultima cena. «Un'unica supplica, un'unica mente, un'unica speranza nell'amore. Accorrete tutti a Gesù Cristo come all'unico tempio di Dio, come all'unico altare. Egli è uno, e procedendo dall'unico Padre è rimasto a Lui unito e a Lui è ritornato nell'unità». 7:1-2. Ignazio, per primo nella letteratura cristiana, attribuisce alla Chiesa l'aggettivo cattolica, cioè universale. Dove è Gesù Cristo, egli afferma, lì è la Chiesa cattolica. Smirnesi 8:2. E proprio nel servizio di unità alla Chiesa cattolica, la comunità cristiana di Roma esercita una sorta di primato nell'amore. In Roma essa presiede, degna di Dio, venerabile, degna di essere chiamata beata. Presiede alla carità che ha la legge di Cristo e porta il nome del Padre. Romani, prologo. Come si vede, Ignazio è veramente il dottore dell'unità, unità di Dio e unità di Cristo, a dispetto delle varie eresie che iniziavano a circolare e dividevano l'uomo e Dio in Cristo. Unità della Chiesa, unità dei fedeli, nella fede e nella carità, delle quali non vi è nulla di più eccellente. Smirnesi 6:1. In definitiva, il realismo di Ignazio invita i fedeli di ieri e di oggi, invita noi tutti a una sintesi progressiva tra configurazione a Cristo, unione con Lui, vita in Lui, e dedizione alla sua Chiesa, unità con il Vescovo, servizio generoso alla comunità e al mondo. Insomma, occorre pervenire a una sintesi tra comunione della Chiesa all'interno di sé e missione e proclamazione del Vangelo per gli altri, fino a che attraverso una dimensione parli l'altra e i credenti siano sempre più nel possesso di quello spirito indiviso che è Gesù Cristo stesso. Magnesi 15. Implorando dal Signore questa grazia di unità e nella convinzione di presiedere alla carità di tutta la Chiesa, Romani prologo, rivolgo a voi lo stesso augurio che conclude la lettera di Ignazio ai cristiani di Tralli. Amatevi l'un l'altro con cuore non diviso. Il mio spirito si offre in sacrificio per voi non solo ora, ma anche quando avrà raggiunto Dio. In Cristo possiate essere trovati senza macchia. 13. E preghiamo affinché il Signore ci aiuti a raggiungere questa unità e ad essere trovati finalmente senza macchia, perché è l'amore che purifica le anime.